avesse fatta nato, quella che hai fatto a me, stomma t'avesse acciso, e vuoi sapere perché? Perché in coppa a sta terra, femmina come a te, non c'hanna sta penomma, onesta come a me. Femmina, tu sì, una mala femmina, chi sto occhi fatta chiagnere, lacrime infamità. Femmina, se tu peggio una vipera, m'indussicata l'anima, non posso più campare. Femmina, si doce con mio zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per ingannare. Femmina, tu sei la più bella femmina, ti voglio bene tutti, non te posso scordare. Te voglio ancora bene, ma tu non sai perché. Perché l'unico amore sei stato tu per me, e tu per un capriccio tutto è distrutto in me. Ma Dio non ti perdona quella che hai fatto a me. Ama pura, lindissima ma pura, será sempre tu alma. Voglio bene, t'odio, non ti posso scordare.